sempre la sigla del Jet Live alle 7:46 minuti, seppur di una vigilia di weekend. Inizia il mese di marzo, inizia il weekend, come vi ho detto, abbiamo traslato in edizione straordinaria il corposo weekend estense che inizierà da questa sera. Quindi non ho potuto presenziare lo scorso weekend, non ho lo spazio ascoltato per voi, ma decisamente importante anche come ogni weekend l'All Star di presenze per il Torione, che come ho detto troverà questa sera una formazione eterogenea, come del resto lo è la proposta del weekend a Ferrara. Venerdì 1 marzo, oggi alle 21:15, Toninho Horta Quartet, Toninho Horta, Vozze Violao, come si dice, chitarra e voce. Troviamo questo musicista che è simbolo della scuola chitarristica dello stato brasiliano di Minas Gerais. L'elenco delle sue realizzazioni come leader e delle sue collaborazioni fanno di lui una vera star della musica brasiliana. Beh, già dalla collaborazione con Milton Donascimento, la loro amicizia poi sarà salda nel tempo e lo porterà ad altre collaborazioni importanti: Jobim, João Bosco, Edu Lobo, Gal Costa, Elis Regina. Quindi una presenza assolutamente importante. Si dovrà attendere fino al 1980 però per il suo disco d'esordio. Altri artisti brasiliani in seguito poi avranno motivo di collaborazione con Toninho Horta, Maria Bethânia, Ayrton Moreira, Flora Purim, Sergio Mendes e, come ben conosciamo, Joyce, a sua volta già presente al Torione. Il suo trasferimento negli Stati Uniti d'America lo porterà con musicisti del calibro di Wayne Shorter, Herbie Hancock e Kate Jarrett. Questa sera Toninho Horta presenterà una sonorità certamente con forti attinenze brasiliane, allo stesso tempo un linguaggio forbito, accompagnato da una formazione che vede Pietro Tonolo al sax, tenore, sax, soprano e flauto, Alfredo Paixão al basso elettrico e Jorge Rossi alla batteria, musicista che già abbiamo conosciuto. Quindi vi do un assaggio di quello che ascolteremo per la presentazione, per l'inizio di weekend per questa sera al Torione. Non è certo stagione, però il brano ha un titolo molto particolare: Bicycle Ride. Lui è Toninho Horta col suo quartetto. Ce li ascoltiamo e torniamo in diretta a breve. Buon ascolto. Dar um tempo. capacità d'espressione alla chitarra che si estende con queste note, dal titolo atipico se pensiamo all'aspetto meteorologico di oggi, Bicycle Ride, questa biciclettata che però magari accompagnata da questa musica dà l'idea di panorami e paesaggi ben diverso. Artista da sensazione chiaramente, con una tradizione, con una collaborazione costante con grandi artisti dal Brasile e non solo, ribadisco la collaborazione con George Duke, Gil Evans, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Keith Jarrett, insomma apre così il Torrione, apre così il mese di marzo a Ferrara per il Jet Club. E avremo un assaggio per i tre concerti, per i tre appuntamenti, tutti diversi tra di loro, in questo Jazz Live all'interno del Breakfast Club. Siamo a sabato 2 marzo, dove troviamo un pianista dal grandissimo talento. Lui già con i Bad Plus l'abbiamo conosciuto, un trio che per così dire ha dato non solo alla classicità ma soprattutto alla composizione di modern jazz una ricerca e un percorso di carriera assolutamente importante. Si stacca dai Bad Plus e con Thomas Morgan al contrabbasso e Kushaba Day alla batteria dà vita a un nuovo trio che avrà modo di esprimere allo stesso modo una continuità di ricerca nella formazione piano trio. Beh, troviamo le collaborazioni a sua volta di Ethan Iverson in passato con Tim Berne, con Lee Konitz, con Paul Motion, con Dave Douglas, grandissimo trombettista. Arriva a incidere per la SM, il suo pianismo è assolutamente forbito, è importante, è qualcosa che rapisce, è una struttura musicale che, come ho detto, dà una continuità e allo stesso tempo diversifica il suono della formazione che vi ho descritto in precedenza, al trio dei Bad Plus, lavorando a fianco a un batterista come Dave King, tra l'altro. Quindi sarà presente nella serata di domani, cioè sabato 2 marzo, sempre al Torrione, alle ore 21:15. Poi la collaborazione anche con Mark Turner, che era naturale estensione dei Bad Plus, sempre per il lavoro di ricerca in ambito di modern jazz, il quartetto con Tom Harrell. E come vi ho detto, ascolteremo un brano da un suo lavoro ECM, ma ha inciso anche per Blue Note Ethan Iverson, uno dei pianisti, sì, se vogliamo, più puliti, ma nello stesso tempo più di ricerca, molto particolare e raffinata. molto particolare anche osservare le differenze tra i vari musicisti. Da poco presente al Torione lo sarà anche la prossima settimana Alexander Hawkins, pianista, che ha una sonorità e una struttura molto diversa da Ethan Iverson, ed è veramente un paragone acustico all'ascolto che risulta certamente piacevole in entrambi i casi, ma è particolare trovarne le differenze ed ascoltarne con gusto le note così importanti ma allo stesso tempo così diverse tra di loro. Ethan Iverson insieme al suo trio, che ribadisco vede Thomas Morgan al contrabbasso, musicista dal timing perfetto, e Cash Abadey alla batteria. Serico Tonale curata da Istantanea è la serata di domenica che chiude il weekend. Intanto pensiamo a godercelo il weekend in musica e troveremo un salto nel tempo. Io ad esempio ho fatto domande, avremo anche la conversazione che ho tenuto con Andrea Inghisciano, cornetto e flauto, la proposta è musica con struttura dal 500 al 600, per cui totalmente diciamo al di fuori, purtroppo ignoranza mia, non la conosco, anche se certamente l'immagine, la sonorità mi ha aiutato molto la mia passione per l'arte ad avere intuizione per queste note. Comunque già il titolo del concerto, che prende dalla formazione il nome I Cavalieri del Cornetto, non si sta parlando di croissant ma si sta parlando ovviamente di questo particolare strumento, di questo particolare flauto, da cui avremo approfondimento con la voce di Andrea Inghisciano. Tutto ciò dopo la pubblicità, a tra poco, non cambiate frequenza qua con noi sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Entro in diretta alla tromba di Miles Davis. Vabbè, ho portato un tutti i tempi per fare un viaggio nel tempo, arrivare a musica tra il rinascimentale e il barocco, come ho anticipato prima della pubblicità, eh? Per quel poco che ho potuto mi sono informato e dal cornetto ho trovato questa imboccatura strana laterale che già mi ha affascinato tantissimo, però ho immaginato alcuni putti, alcuni cherubini che suonavano allo stesso modo in alcuni affreschi che ho trovato tra Umbria e Toscana. Allora mi sono immaginato questo strumento tipico per l'epoca come può essere tradotto ai giorni nostri, e questa possibilità ce la dà Andrea Inghisciano Fabriano, cornetto e flauto, che sarà insieme a David Brutti, anche lui al cornetto, e Gianluca Geremia alla spinetta. Ho contattato per saperne di più Dario nella musica che troveremo nelle composizioni. Già ad esempio vedo un'interpretazione dal musicista Dario Castello, 1602-1631, però il protagonista in questo caso è Andrea Inghisciano, e quindi sentiamo le sue parole. Io e Davide suoneremo il cornetto, e in particolare Davide anche il cornetto tenore, che è detto anche l'isarda, è uno strumento fatto a S molto particolare e raro. E noi vogliamo saperne di più a questo punto. Già la rassegna Serico Tonale, curata da Istantanea, ci mette di fronte a queste sonorità che alzano l'asticella del sapere musicale. Di che si tratta? Prima di tutto parliamo del cornetto, che è uno strumento sconosciuto, tant'è che anche nei festival di musica antica arriva sempre qualcuno a fine concerto a chiedere cos'è quello strumento storto, ma poi ti chiedono se c'è il bocchino, l'ancia o lo scambiano per un flauto. Il cornetto è questo tubo che può sembrare un flauto, cioè sette fori, però in cima ha un bocchino come quello di una tromba o di un corno, molto piccolo. È uno strumento fatto di legno o di corno, una volta li facevano anche di avorio. Che particolarità possiamo trovare, ma soprattutto ascoltare? La musica sarà di un'ispirazione che tu già hai riportato o fatto intuire. Che composizioni saranno, Andrea? Le musiche che eseguiremo saranno del 1500 e 1600, che sono i due secoli che il cornetto era in uso prima della sua scomparsa, e ci saranno autori come Monteverdi, Claudio Merulo e altri meno conosciuti come Valentini, poi c'è Villaert, Rossi, tutti i compositori di quell'epoca scrivevano musiche sia sacre che profane. Sì, perdona la mia ignoranza, in questa scrittura musicale è prevista anche uno spazio per l'improvvisazione o è tutta scritta? Allora, no, la musica è tutta scritta, ma è previsto spazio per l'improvvisazione, che all'epoca si chiamavano passaggi o diminuzioni. E ci sono un sacco di trattati sia del 500 che del 600 dove ci sono delle sorta di patterns, esempi scritti da questi autori su come poter abbellire una melodia in modo anche molto pesante. Quindi quello che facciamo è utilizzare certi brani come base, come manovaccio, per sopra improvvisare delle variazioni più o meno complesso, che è la specialità nostra, o meglio è la mia passione maggiore, il motivo per cui suono questa musica e non la musica classica normale, dove si è obbligati a suonare perché c'è scritto. Thank you. castello che ho citato in precedenza, che io non conoscevo, nasce a Venezia nel 1602. È stato uno dei compositori violinisti tra i primi esponenti del barocco. Fu uno dei maggiori esponenti della scuola, come ho detto, già dalla nascita veneziana, ed ebbe un ruolo fondamentale di importanza nella creazione della sonata, come stiamo ascoltando, del primo 600. Grande fascino per l'eterogeneità del Torione. Siamo partiti da un Brasile che trova in sonorità di velluto una saudade e nello stesso tempo un Brazilian Soul in stile Far Out, per citare una label che segue il Breakfast Club, di grande gusto. Dopodiché il contemporaneo nel jazz, nel modern jazz di Ethan Iverson, e questo viaggio nel tempo per conoscere anche questo strumento dall'imboccatura molto particolare, e scopriremo anche il perché viene utilizzato in questo modo, continuando la nostra conversazione con i Cavalieri del Cornetto. Andrea Anghisciano qua ai nostri microfoni, David Brutti al cornetto e al flauto e Gianluca Geremia alla spinetta. Sentiamo Andrea per questa seconda parte di dialogo, per anticipare il concerto di domenica, che ricordo è la rassegna serico-tonale curata da Istantanea. Sì, è vero. Allora, devo dire che prima suonavo la tromba e anche quando sono passato al cornetto suonavo con un'impostazione centrale. Poi ho conosciuto altri cornettisti, ho visto che suonavano sia a destra che a sinistra, e guardando le iconografie dove ci sono questi angeli dipinti che suonano spesso il cornetto, si vede che lo suonavano sia in centro che a destra che a sinistra. Il motivo qual è? Io trovo che da quando ho cominciato a suonare sull'angolo ho sviluppato un suono più bello, soprattutto più dolce nella sonorità piano, e anche più agile, e mi lascia lo spazio di nuovo libero al centro per suonare la tromba. E a questo punto non ci resta che ascoltare, ma anche vedere, per la rassegna sericotonale curata da Istantanea. Chiude il weekend per la domenica 3 marzo i Cavalieri del Cornetto, Andrea Anghisciano qua con noi che ne ha dato anticipazione. Grazie della disponibilità a Ferrara. Bene, grazie. E quindi terminata la presentazione in questo atipico Jazz Live, atipico come, intanto saluto Alfredo Pasquali che ritroveremo dalle 11:30, in suo onore ho messo Sal Peanuts, anche se interpretato da Miles Davis nel suo primo quintetto da Steamin'. Per quanto riguarda Sal Peanuts sarà in frequenza per la mattinata di domani, per il Jazz Live invece dalle 11:30 come di consueto ci sarà anche quest'oggi. Come ben sapete, nel Breakfast Club il venerdì ci porta in scena, si alza al sipario sui 103.1, quindi puntuali, guarda, 8:15, ufficialmente lanciamo la sigla, inizieremo con ospite in diretta telefonica, per cui restate all'ascolto per In Scena, la rubrica del weekend, anzi vigilia del weekend, per questo venerdì che dà il via al mese di marzo, primo marzo 2024, In Scena.